A bordo campo di Dario Ricci. Ciò che noi vogliamo fare in questa narrazione non è la storia di un uomo, di una donna o di un gruppo di persone. È soltanto la storia di un quartiere di Palermo divenuto simbolo del degrado. Non solo in Italia, ma, incredibile ma vero, in tutto il mondo. Si sono scritti svariati articoli giornalistici, le sue strade sono diventate il set di diversi film denunzia, si sono scritte persino canzoni. È stato argomento di diversi convegni di architettura, di sociologia, di forze dell'ordine sulla criminalità organizzata e sulla microcriminalità. Insomma, lo ZEN, acronimo di Zona Espansione Nord, è diventata la vergogna italiana, l'ecomostro per eccellenza. Buongiorno, oggi a bordo campo va a Palermo, va in uno dei quartieri più difficili di Palermo, lo ZEN, lo sentivamo da questo filmato tratto da un video, perché oggi parliamo di questo video, di questa città, di questo quartiere, di un concorso, di un gruppo di giovani scolari di questo quartiere che denuncia ciò che lo ZEN è e spera in ciò che lo ZEN sta diventando e che magari un giorno sarà. Tutto questo con alcuni ospiti particolari ed una guida d'eccezione, un amico di Radio 24, un grande campione della nostra pallavolo, Andrea Zorzi. Ben ritrovato Andrea a bordo campo. Ben ritrovati, e parliamo con Gino Pantaleone che è professore dell'Istituto Salvemini di Palermo e con alcune delle ragazze che hanno partecipato a questo concorso. Noi ci siamo conosciuti un po' di tempo fa a Treviso in occasione della premiazione del Learning Social Sport che utilizza lo sport responsabile per crescere. C'erano cinque scuole candidate e lo ZEN Palermo ha vinto. Ecco perché abbiamo l'ospite con noi. Beh, professor Pantaleone, perché raccontare lo ZEN in questo modo? Il rapporto tra lo ZEN, il vostro quartiere e lo sport attraverso un video che denuncia tutto quello che lo ZEN è, ma anche quello che questo quartiere vuole essere. Come nasce questa idea? Ma l'idea nasce intanto dal titolo Sport responsabile per crescere. Insomma, non c'era migliore argomento che trattare un tipo di sport da fare in un quartiere come lo ZEN. Parliamoci chiaro, allo ZEN come in altri quartieri, nonostante avessero costruito un velodromo nella periferia del quartiere, un palazzetto dello sport, un campo da baseball, una pista di pattinaggio, c'era da capire intanto a cosa servissero questi grossi impianti allo ZEN, e abbiamo capito che non servivano assolutamente a nulla. E c'era da capire quale poteva essere lo sport che poteva salvare il quartiere. Abbiamo constatato e alla fine, insomma, abbiamo capito che effettivamente lo sport che salva lo ZEN è lo sport che fanno le associazioni, le parrocchie, la scuola, che sono comunque strutture radicate nel territorio. Cioè solo quelli che conoscono lo ZEN possono veramente fare qualcosa di costruttivo, di educativo attraverso lo sport. Ecco, professore, mi sembra che lei tocchi già un tema centrale di questa discussione sulla quale vorrei coinvolgere Andrea. Molto spesso si dice quartieri delle grandi periferie in cui mancano le strutture, le infrastrutture, i palazzetti, le palestre, sono difficili da realizzare. Tutto vero, tutto giusto, però il professor Pantaleone ci dice che da sole queste strutture non bastano. Ma ormai si parla spesso di risorse umane e ancora una volta questo è il vero segreto. Le strutture certamente servono, senza palestre non si può fare sport, ma da sole le strutture non bastano. Allo ZEN, tra l'altro ZEN non è ispirato alla filosofia orientale, ma è Zona Espansione Nord, e alcune strutture troppo grandi a quanto pare ci sono, ma non hanno creato quella connessione diretta con la gente che ci vive. E c'è anche una frase che mi ha colpito molto che mi hanno detto, e cioè Palermo rifiuta lo ZEN e lo ZEN naturalmente a sua volta rifiuta Palermo. Quindi lo sport non è ancora diventato quel punto di giunzione tra Palermo e un quartiere in grave difficoltà. In questo video i ragazzi dell'Istituto Salvemini di Palermo raccontano anche gli aspetti più drammatici, lo dicevamo, dello ZEN. Il bunker si trova nel quartiere ZEN, ex feudo dei capi mafia di San Lorenzo Salvatore e Sandro Lo Piccolo, ora detenuti. L'entrata si trovava nella casa di un pregiudicato, Antonino Grimaldi, di 29 anni. Nel locale sono state trovate anche munizioni e diverse dosi di cocaina, pronte per la vendita. Cosa pensi del tuo quartiere? Penso che il mio quartiere è come tutti gli altri di Palermo, e che è strutturalmente anche buono, ma penso anche che c'è una sovrappopolazione di persone incivili. Penso nei loro affari e mancano di rispetto alla gente che vive accanto a loro. Quali sono le cose positive e quali quelle negative del tuo quartiere? Di positivo c'è che ci sono persone che vivono all'interno di questo quartiere, che insegnano ai loro figli come sapersi comportare. Poi da un po' di tempo si sono creati dei centri ricreativi che permettono di levare alcuni ragazzi dalla strada e farli partecipare ad alcuni lavori. Le cose negative sono l'inciviltà diffusa del regno. Ecco, questo è un passaggio particolarmente significativo, a mio parere, di questo video. Professore, abbiamo sentito delle voci di ragazzi e so che vicino a lei ci sono appunto due delle protagoniste della classe seconda S che hanno realizzato questo video. Allora, abbiamo in linea Miriam Montesanto e Noemi Albanese. Miriam, allora, qual è l'obiettivo di questo video audio racconto? Bene, l'obiettivo di questo video è stato appunto far capire che anche in un quartiere dove ci sono molti problemi, sia sociali che anche economici, lo sport possa aiutare anche per creare un dialogo fra gli abitanti dello Zen, per magari instaurare un rapporto tra lo Zen e le persone al di fuori del quartiere, perché come appunto abbiamo raccontato, lo Zen si isola da Palermo e Palermo si isola dallo Zen, è purtroppo una cosa che a noi dispiace. Personalmente a me, che non sono dello Zen, dispiace molto, perché lo Zen fa parte della mia città e vorrei anche viverla come quartiere, come situazione. Credo che pian piano, magari con l'aiuto di chi se ne intende, dei responsabili, con amici anche, si possa creare anche un rapporto, un qualcosa per risolvere la situazione. Non parlo a livello economico, perché a livello economico ci sono problemi ovunque ora come ora. Però parlo magari a livello affettivo, a livello sociale, di dialogo, di instaurare un rapporto, di creare anche una stabilità fra questo quartiere e la mia città. Bene, grazie Miriam. Andrea Zorzi, tu sei stato padrino dell'esperienza fatta dagli studenti palermitani in questo concorso, ma c'erano anche molti altri campioni dello sport, uno su tutti mi viene in mente, Pino Maddaloni, impegnato in progetti analoghi in un altro quartiere difficile, a Napoli, a Scampia. Ecco, qual è il contributo che può arrivare da campioni della vostra notorietà, del vostro spessore in questi progetti e per cambiare lo stato delle cose? È un'opportunità e come molte opportunità deve essere gestita con attenzione, perché è vero che ci potrebbe essere un po' di promozione, un po' di popolarità, un po' di risalto mediatico che la presenza di atleti importanti può dare a questa manifestazione, ma ciò che è importante è evitare che si crei una scissione netta tra lo sport di base, quello fatto per stare meglio, per stare in compagnia, per imparare a giocare e rispettare le regole, e quello che è lo sport professionistico. E questa è anche la domanda che mi piacerebbe rivolgere infatti a Noemi, se possiamo averla in comunicazione. La domanda è proprio quella: come vedete voi, ragazzi dello Zen, questi grandi atleti dello sport famosi e anche molto ricchi? L'esperienza che abbiamo avuto con questi campioni dello sport è stata appunto capire profondamente il vero valore dello sport, e quindi speriamo in qualche modo di poterlo trasmettere anche a tutti quei nostri amici, perché poi sono ragazzi della nostra età, trasmettergli questo vero significato della parola sport, l'importanza, in modo da poter creare una nuova società molto più, come dire, pulita, vera. Ecco Noemi, ti chiedo ancora, sentite vicino in questo processo di cambiamento, in questo lavoro che state facendo, in questo processo di crescita, anche le istituzioni, anche quella che è la politica? C'è un legame oppure sono iniziative che partono poi dalla scuola e che difficilmente si riescono a portare al di fuori della scuola? Allora, non è facilissimo portarle al di fuori della scuola, perché molte associazioni... molte non si rendono così disponibili, sono poche quelle che ci possono dare l'appoggio per portare avanti questo progetto al di fuori appunto. Fortunatamente noi con la nostra scuola siamo riusciti a creare questo, come dire, progetto e a portarlo al di fuori, e abbiamo avuto anche, come dire, una buona ricompensa con la vincita, perché abbiamo afferrato il vero rapporto che c'è tra un ragazzo e lo sport. Insomma, un processo sicuramente non facile. Grazie a Noemi Albanese e poi a Miriam Montesanto della seconda S dell'Istituto Salvemini di Palermo. Tornerei a parlare col professor Pantaleone, non prima però di aver sentito un'ultima parte di questo video, no Andrea? Abbiamo detto difficoltà che certo non mancano, ma anche speranza, quella che racconta questo audio video, e quella che in qualche modo questi ragazzi seminano vivono nelle periferie più degradate di Palermo. E allora, attraverso un piccolo gesto, un semplice campo di calcetto, un'iniziativa spontanea, questa speranza può attecchire. Sentiamo come. Lo Zen riparte da un nuovo battesimo per il quartiere della disperazione. Verde e servizi nell'ex regno della droga. Da oggi non siamo più lo Zen, ma il quartiere San Filippo Neri. Ci chiamano come il santo della nostra parrocchia. E non so perché, ma mi è sembrato che ci porterà fortuna. Si ci muove ispirati cristianamente, quindi lo sport diventa un momento davvero di massima educazione, di divulgazione di valori che hanno a che vedere con l'ama il prossimo tuo come te stesso. Qui si organizzano campionati di calcetto, manifestazioni con giochi per bambini, campionati di pallavolo e si fa animazione in generale grazie anche alla collaborazione di molti volontari specializzati e non del settore. Professor Pantaleone, beh, mi sembra di capire da questo video che laddove hanno fallito i grandi impianti, le mega opere, sembra riuscire invece lo sport fai da te, lo sport semplice che recupera i valori della strada e della convivialità, direi così. Guardi, io le dico, non è uno sport fai da te, è uno sport organizzato, perché intanto sono enti di promozione sportiva che organizzano questi campionati, questi tornei di vari sport, attenzione. Ovviamente in questi quartieri prevale molto il calcio a 5, il calcio a 7, insomma. Quindi promozionale, uno sport promozionale. E loro odiano lo sport d'élite, ovviamente. E preferiscono gli sport quelli umili, quelli dove basta dare un calcio al pallone, organizzarsi in squadre, in gruppi, dove si capisce che effettivamente dove c'è il cuore, dove c'è l'umano, ecco, dove loro sentono vicini non solo le attrezzature, gli impianti, ma sentono vicini anche l'essere umano. Andrea Zorzi, le parole del professor Pantaleone sono una bella sferzata per tutti noi. Immagino anche per chi come te ha interpretato lo sport ai massimi livelli, no? Forse quando si sta su quei podi con le medaglie al collo diventa anche un po' più difficile ricordarsi questi significati e anche il valore dell'esempio che può arrivare, no? Da quei podi, da quelle medaglie. Si perde un po' di vista quello che è il cuore, quella che è la passione, quello che è il bisogno proprio di fare sport, ma in realtà di condividere con gli altri un'attività regolamentata in qualche modo. Ma questo non è ciò che lo sport professionistico riesce a promuovere. Questa è una questione cruciale, perché molte volte la potenzialità dello sport di alto livello viene sprecata proprio in questa distanza che si crea tra i campioni e il resto, che diventano solo fruitori dello sport. Questo ormai è un problema gravissimo sul quale occorre concentrarsi, perché lo Zen, come abbiamo visto, non ha parlato di calcio, di pallavolo o di altri sport, ma del bisogno di trovare un luogo nel quale crescere insieme. Grazie a Gino Pantaleone, professore dell'Istituto Salvemini di Palermo, e un grazie chiaramente ad Andrea Zorzi, sempre benvenuto a Bordo Campo. Grazie a voi, ciao a tutti. A Bordo Campo. L'avete riconosciuta certamente, la haka dei mitici All Blacks, segno che si parla di rugby, segno che si parla della palla ovale, però in un senso del tutto particolare a Bordo Campo, perché non parliamo del rugby dei grandi campioni, ma del mini rugby, il rugby dei bambini, uno sport che sta prendendo sempre più piede in Italia, sta raccogliendo un numero sempre maggiore di appassionati. E allora proviamo un po' a indagare che cosa accade sul campo, alla caccia della meta, ma anche a Bordo Campo, per capire qual è il peso di questo sport e il suo valore educativo. Allora, un ospite in collegamento con noi, Maria Blarasin. Buongiorno Maria. Buongiorno, buongiorno caro Dario e buongiorno a tutti. Allora, Maria Blarasin, perché ospite a Bordo Campo? Beh, perché Maria è stata una delle prime rugbiste italiane, adesso ne andiamo a parlare, oggi mamma e quindi pienamente coinvolta nell'avventura del mini rugby con i suoi figlioli, con i Pirati di Bernareggio, una squadra giovanile di mini rugby nelle varie fasce d'età che gioca e si diverte in Brianza. Beh, Maria, oggi parlare di rugby, mini rugby, donne che giocano a rugby spesso anche meglio dei maschi non è certo un'eresia, anzi. Però quando hai iniziato tu sei stata tra le promotrici di una vera e propria rivoluzione ovale, vero? Assolutamente, direi che siamo state delle vere eretiche, tant'è vero che la Federazione Italiana ha avuto delle serie difficoltà a capire chi eravamo, cosa volevamo fare in uno sport decisamente tutto maschile a quell'epoca. Poi le cose pian pianino sono cambiate, vediamo oggi nei campi del mini rugby le ragazzine dai 7 anni fino ai 12 giocare tranquillamente a rugby anche con i maschietti, divertirsi e devo dire forse anche con un occhio tipicamente femminile più attento al gioco e al far funzionare le cose che non alla vittoria, che è comunque un obiettivo sempre comunque molto maschile. Ecco Maria, come hai scoperto tu il rugby? In quale squadra giocavi? Dunque, io il rugby l'ho scoperto nel 1975 circa, ovviamente attraverso i miei amici maschi, all'epoca giocavano nella SR, nel CUS Milano, un gruppo di amici che io frequentavo, e la pazzia è stata che io e un gruppo di fra fidanzate e amiche di questi signori abbiamo deciso di entrare in campo anche noi. Ovviamente ci allenavamo a Milano, che era la nostra città, io facevo a quell'epoca il liceo, e l'ulteriore pazzia è stata quella di coinvolgere un sacco di ragazze anche della mia scuola, che oggi alcune di loro addirittura lavorano per la Federazione Italiana Rugby. Emozione allora, emozione che oggi attraverso i figli si trasferisce sul campo da mini rugby. Abbiamo chiesto a Paolo Piersanti, un giornalista autore di Mini Rugby, chi, cosa, dove, quando e perché, l'unico testo italiano completamente dedicato proprio al mini rugby, di spiegarci in cifre i numeri di questo fenomeno che sta prendendo sempre più piede. Sentiamo proprio cosa ci ha detto Paolo Piersanti. A tutt'oggi si può parlare di oltre 50.000 bambini e bambine iscritte nelle società di mini rugby in tutta Italia. Sicuramente è più presente al nord Italia, poi anche al centro Italia, però va scemando un po' verso il sud Italia. Più perché a nord ci sono delle società come la Benetton, eccetera, che hanno veramente investito molto in questo sport, con risorse proprio loro hanno potuto far sì che questo sport sia stato anche più conosciuto nelle loro zone, eccetera, per esempio nel Trevigiano, in tutte le Venezie. Insomma Maria, numeri significativi per questo sport in crescita. Si dice rugby certo sport non per femminucce, ma per bambine sì, vero, uno dei luoghi comuni da sfatare che malgrado questo sia uno sport di contatto e che contatti, ben vengano le bambine in campo. Assolutamente, ben vengano le bambine in campo, noi ci auguriamo sempre che arrivino sempre di più, in realtà noi ci auguriamo che arrivino sempre più bambini, perché il rugby è uno sport che ha una valenza oltre che sportiva, sicuramente anche educativa, e questo ovviamente è trasversale a tutte le età e comunque a tutti i sessi, ecco. E quindi il valore del passaggio all'indietro, che è un valore sociale fondamentale per andare avanti tutti insieme, perché da soli non si va da nessuna parte, oggi è sicuramente uno degli aspetti, come dire, più importanti, più belli per far crescere i nostri figli. Un altro aspetto che io ritengo assolutamente interessante è l'aspetto legato al terzo tempo, quindi la condivisione anche con gli avversari di un momento ludico, ma anche, come dire, mangereccio, no? Per cui il cibo accomuna tutti e quindi è un modo come un altro per mitizzare quello che è avvenuto in campo, nel bene e nel male. Maria, uno sport, il rugby e la sua derivazione per bambini, che riesce in qualche modo a prescindere anche dal traino dei risultati dei professionisti o del vertice, no? Abbiamo visto la nazionale azzurra, risultati alterni, quest'anno anzi un Sei Nazioni decisamente negativo, ma continua a far proseliti questo sport. Quali sono secondo te i punti di forza del progetto educativo? Beh, da un punto di vista, come dire, squisitamente sportivo, il fatto che comunque è uno sport assolutamente completo, uno sport di gruppo in cui ovviamente l'individuo che vinca o che perda stempera le sue tensioni attraverso una dinamica di gruppo e fra l'altro proiettando come dire, delle abilità che vengono conquistate, perché il rugby è uno sport estremamente complesso, anche nel mini rugby che l'abbiamo semplificato, ma comunque ha dinamiche mentali, degli obiettivi personali da superare. E queste piccole conquiste poi vengono messe a disposizione della squadra, del gruppo, del team. Quindi è una crescita collettiva che il genitore attento ha colto, e credo che sia questa la ragione del successo, perché come tutti sanno, prima di conquistare i bambini bisogna conquistare anche un po' i genitori, perché altrimenti ovviamente non si ottengono i numeri e la partecipazione. Da noi i genitori sono un elemento fondamentale anche dell'organizzazione del mini rugby. Parole che vengono pienamente sottoscritte anche dai professionisti del mondo del rugby. Sentite cosa ci ha detto Carlo Festuccia, campione della Nazionale Azzurra e del Racing Parigi, proprio a bordo campo di una delle riunioni dei mini rugbisti dei Pirati di Bernareggio. Il rugby nostrano è il rugby costruito dai bambini e dalle famiglie che gli ruotano intorno. E questo è principalmente il principio di questo sport, lo spirito di questo sport, che poi con l'andare avanti, col crescere, può diventare un lavoro, ma che alla base ci deve essere uno spirito, una mentalità completamente diversa, e per creare un gruppo di amici come prima cosa. Sì, ha fatto breccia appunto perché la gente lo ammira come sport diverso dagli altri, uno sport in cui per raggiungere l'obiettivo che è fare la meta bisogna passare la palla indietro. Questo quindi Carlo Festuccia, testimone d'eccezione di quanto ci stavamo dicendo. Maria, il mini rugby è anche laboratorio per alcune esperienze innovative di inserimento nelle dinamiche del gioco di squadra di alcuni mini giocatori veramente particolari. Sentite cosa ci ha raccontato Paolo Piersanti. Essendo uno sport di squadre di contatto, è l'unico sport a tutt'oggi, almeno in Italia, di squadra, sport di squadra, quindi non sport solitario come potrebbe essere il nuoto, per esempio, eccetera, che riesce ad inserire i bimbi down tra le fila, diciamo, delle mini squadre di questi bambini, di queste squadre di bambini di 7 anni, 8 anni, 9 anni. Una di queste società è la Capitolina, che ha tra i suoi iscritti circa 8, 9 se non 10 bimbi down, e questi bambini sono perfettamente inseriti, si divertono un mondo, assolutamente hanno un sostegno lì a bordo campo, che però dopo pochi minuti è un sostegno di cui si dimenticano proprio, di cui non hanno più bisogno, si proprio relazionano e interagiscono con gli altri bambini in una tranquillità e serenità assoluta. Eccolo qua, insomma, come ci racconta Paolo Piersanti, mini rugby è anche luogo importante d'aggregazione e di inserimento sociale per tutti i tipi di mini rugbisti. Ogni tanto però, Maria Blarasin, un errore lo commettete anche voi appassionati di rugby. Osate mettere piede sul campo da calcio, il sacro campo da calcio che anche a Bernareggio, nei paesi della Brianza o anche nelle più sperdute province italiane, è qualcosa di intoccabile. Sentite cosa è successo in occasione di questa riunione dei pirati che hanno appunto profanato il tempio del calcio. Non me ne frega un cazzo, va bene, un assessore di un paese non conta nulla. Scottina, so più mettere la gente. Non mi interessa, dovrei chiedere a me, capito? E prevale il cazzo. Facciamo uscire tutti. Insomma, Maria Blarasin, avete osato mettere piede sul campo da calcio e qualche burocrate del luogo si è arrabbiato. Rapporto sempre complicato questo tra la palla ovale e la palla rotonda. Secondo te come andrà a finire? Ma secondo me andrà a finire come sempre succede, che pensando ai bambini e pensando ai loro bisogno di giocare, le cose si mettono a posto facilmente. Infatti questo signore che si sentiva un pochettino alterato, perché in effetti forse noi abbiamo invaso un campo che non ci era stato dato in concessione, ma non aveva capito che un bisogno fondamentale era quello di poter contenere i 200 bambini che nella giornata di domenica si sono avvicinati al rugby e avevano un grande desiderio, che era solo quello di giocare. Quindi era giusto violare qualche regola, ma comunque soddisfare quelli che erano le loro necessità e i loro bisogni, che era alla fine divertirsi. Spero che finisca veramente, che si passi la palla all'indietro e andiamo avanti tutti insieme. Con la promessa di non far più arrabbiare i calciofili e i calciatori, in bocca al lupo ai Pirati di Bernareggio, un grazie a Maria Blarasin e anche un grande in bocca al lupo ai 50.000 e più praticanti di mini rugby in Italia.